La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 43 secondi, siamo in diretta agli studi di Milano della radio, grazie per l'ascolto in diretta in podcast, ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per venire in trasmissione o segnalare temi, e andiamo subito all'argomento della puntata per consentirvi di intervenire all'800 24 0024, le opinioni con gli sms 349-238-6666. Oggi parliamo, potreste dire un evergreen, sì, ma vediamo dei numeri e poi confrontiamo le opinioni, della corruzione, perché dopo la raffica di nuove vicende della scorsa settimana dall'ANAS in poi, l'evergreen si conferma come con ulteriore evidenza come una prassi che non diminuisce per niente all'interno del mondo pubblico italiano, delle gare, degli appalti, eccetera, eccetera, le indagini sulla prima gara del Giubileo e così via, dopo quelle del Mose, dal nord al sud, insomma, senza eccezione alcuna. Allora, il problema è capire, dal vostro punto di vista, ma esiste una strategia diversa da quelle praticate, oppure bisogna insistere su quelle praticate per tentare di venirne a capo? Qui non stiamo parlando ovviamente di ricette generali, meno politica negli affari, meno partiti nella pubblica amministrazione, su questo non si può che essere d'accordo, poi però la realtà va in un altro modo, perché se uno vede la dama nera dell'ANAS, stiamo parlando di una dirigente dell'ANAS che fa, a quanto pare dalle indagini, il bello e il cattivo tempo, decidendo chi pagare prima in cambio di che cosa per la candidatura del fratello alle regionali dopo che lo zio era stato consigliere regionale per 3 legislature in Calabria e così via, parla di ciliegie, di topolini per le tangenti, per telefono commenta: ma che sono queste ciliegie smozzicate, dammi la ciliegia decisiva, cioè la mazzetta decisiva. In quel caso stiamo parlando di una dirigente pubblica. I casi sono diversi con politici poi pure dietro, ma insomma stiamo parlando di un fenomeno molto rilevante. Allora, io prima vi cito i dati sulle mazzette medie per corruzione nella pubblica amministrazione italiana che sono stati elaborati dall'ANAC, ma vi chiedo subito: qual è la strada? Vorreste pene ancora più dure? Io ricordo che noi mesi fa il Parlamento ha approvato le proposte di modifica avanzate da questo governo per il regime, per esempio, delle prescrizioni sui reati di corruzione. Lo ha fatto contestualmente alla formale introduzione del nostro ordinamento dell'ANAC guidato da Cantone. Oggi un processo per corruzione può durare fino a 12 anni, apposta per evitare che con i tempi che passano, con la lunghezza dei processi italiani, poi alla fine si resti impuniti. Lasciamo perdere cosa penso io. Io penso che la prescrizione non debba essere affrontata così, però questa è stata una strategia seguita. Abbiamo introdotto tipi di reati con pene edittali più gravi, gli ecoreati, un altro disegno di legge del governo approvato dal Parlamento l'anno scorso. Bisogna insistere ancora su questo? È la via penale delle leggi più pesanti, secondo voi, oppure che cos'altro? Allora, prima di presentarvi il primo ospite, che è un'autorità in materia come osservatore giornalistico, vi riepilogo le cifre che vengono dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che oggi sono state citate dal vice direttore di Repubblica Fabio Bogo nell'editoriale che trovate sulla prima pagina di Repubblica Affari e Finanza, abbinata a Repubblica come tutti i lunedì. Allora, l'Autorità Anticorruzione ha fatto un esame delle tangenti relative a chi ha avuto condanne inflitte, quindi a processi terminati con condanne per corruzione, e andando a classificare per entità e importo le tangenti, innanzitutto l'analisi dice che il 62% degli episodi di corruzione riguarda i dipendenti di amministrazioni statali, quindi la percentuale delle tangenti su cui la magistratura mette e ottiene indaga e ottiene condanne è, almeno per quello che riesce ad avere un'evidenza penale, molto più diffusa a livello centrale che a livello locale. Dopodiché, per quello che riguarda l'entità delle mazzette, allora, nel 5% dei casi l'utilità ottenuta dal corrotto era inferiore a 1000 euro, quindi stiamo parlando, dal punto di vista delle grandi corruzioni, di spiccioli. Nel 27% dei casi ha oscillato tra 1000 e 10.000 euro. La percentuale più elevata della consistenza delle mazzette è tra 10.000 e 100.000 euro, e stiamo parlando del 44% dei casi, ma c'è anche un 20% dei casi con mazzette superiore ai 100.000 euro, tra i 100.000 euro e il milione di euro. Il 4% riguarda tangenti superiori a un milione di euro. Se però sommiamo non la rilevanza numerica dei diversi casi e li analizziamo, ma sommiamo tutte le cifre delle mazzette incassate da coloro che hanno beccato una condanna per corruzione nella pubblica amministrazione, la media, il valore medio di ciò che si metteva in tasca il corrotto è della bellezza di 153.000 euro. Quindi un ammontare medio che insomma fa molto riflettere, per così dire. Ecco, partiamo da questo dato, che è un dato numerico di consistenza dei centri di spesa su cui la magistratura è riuscita a ottenere condanna all'interno del perimetro pubblico, e del valore medio di questi 153.000 euro degli episodi che hanno portato a condanne giudiziarie. E chiediamo un'impressione, sia se il fenomeno sia avanzato o meno dai lunghi anni in cui lui fa l'osservatore, sia della strategia sin qui seguita per affrontarlo e, almeno a parole, debellarlo, al nostro primo ospite, chi è Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, autore di tantissimi libri che hanno aiutato tutti a entrare purtroppo in dimestichezza con quello che non funziona nella pubblica amministrazione italiana, comprese corruzioni e tangenti. Il suo ultimo libro è per Feltrinelli, si intitola Il facilitatore, e questa volta Sergio Rizzo, dopo tante inchieste giornalistiche, ha scritto un romanzo. Il facilitatore, come potete capire, è una figura centrale nell'intermediazione di ciò che è lecito e illecito, e quindi ha scritto un romanzo, per così dire, a chiave, che consente a molti di coloro che vogliono leggerlo di identificare poi di quale figura in realtà si sta parlando, o da cui almeno l'autore, cioè Sergio Rizzo, ha tratto ispirazione. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Sergio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, nella tua pluridecennale veste di osservatore, compreso l'ultimo pezzo che ci dice che l'ANAS ha 21 avvocati e però al processo manda consulenti esterni riccamente pagati, questo fenomeno è aumentato, è diminuito, è cambiato? Che dici? No, intanto è aumentato perché si è radicato ancora più profondità nella società, no? In tutta la società, perché se andiamo a guardare adesso le condanne, sappiamo poi come funziona la magistratura, ma se andiamo a vedere gli episodi, basta guardare la ANSA oppure scorrere un po' le sentenze della Corte dei Conti, che talvolta diciamo è anche più interessante della magistratura ordinaria, se vogliamo. Beh, c'è una casistica sterminata che non risparmia nessuno, cioè, ma non risparmia la guardia carceraria, come non risparmia il vigile urbano, come non risparmia l'impiegato comunale. Poi sul fatto che ci sia una maggiore frequenza di condanne per i dirigenti, insomma, i dipendenti statali dello Stato centrale anziché quello periferico, beh, lì probabilmente anche a che vedere con questioni che riguardano l'efficienza delle magistrature, penso, no? Perché se uno va a vedere la statistica, poi si rende conto che in realtà i fenomeni corruttivi sono molto più diffusi in periferia che non al centro, no? Basta vedere quello che è successo a Roma. No, quando abbiamo un assessore che ci dice, tra virgolette, che l'amministrazione comunale di Roma è compromessa, che cosa vuol dire? Vuol dire che, diciamo, che il fenomeno è enormemente diffuso. L'assessore Esposito. Esatto. Per quanto riguarda le strategie, beh, fino adesso non è che se ne siano viste tante, tranne l'inasprimento delle pene, ma quello è banale, no? Poi l'inasprimento delle pene corrisponde magari una maggiore capacità di contrasto da parte degli avvocati, perché voglio dire, sappiamo tutti quanti che i carceri italiani sono pieni di poveracci e di extracomunitari, e i colpevoli di corruzione si contano sulle dita di una mano. E la ragione qual è? È che questi hanno poi la capacità di mettere in atto come dire, strategie difensive molto costose, che poi alla fine in gran parte questi li salvano. È chiaro che chi è più ricco ha maggiori possibilità di difendersi dal processo piuttosto che nel processo. Certo, ma l'unica cosa che potrebbe aver avuto qualche effetto positivo è la trasparenza. questo l'ha detto sempre anche Cantone, trasparenza forse è l'unico vero deterrente che esiste. Dopodiché, sai, un paese nel quale non si punisce nessuno, nel quale ci sono 140 o 150 dipendenti del comune di Sanremo che vanno a timbrare mutande, qualcuno in mutande, qualcun altro timbra per gli altri, eccetera, e nessuno muove un dito, addirittura quelli che sono in fila dietro non dicono niente, no? Quando è chiaro che il loro collega sta commettendo un reato ai danni di tutti quanti i contribuenti, beh, è chiaro che poi alla fine purtroppo bisognerebbe partire dall'inizio, no? Cioè bisognerebbe cominciare a impostare una strategia di educazione del. Quindi tu dici innanzitutto c'è una questione culturale, perché solo quella può spiegare la microdiffusione del fenomeno. Ma guarda, io ho trovato nelle mie ricerche, ho trovato presidi che si vendevano i diplomi col tariffario da 500 a 1200 euro secondo l'ISE della famiglia, autoscuole che vendono regolarmente le patenti di guida, guardie carcerarie che si facevano corrompere da persone che erano in carcere per corruzione, magistrati delle sezioni fallimentari che giudice Saguto di Palermo è un bel esempio. Cioè addirittura c'era un giudice di un capo della procura di una città del piemontese che aveva, che artatamente, dicono le sentenze, apriva delle inchieste nei confronti di imprese semplicemente per giustificare le consulenze tecniche che dava a un gruppo di commercialisti amici suoi, chiedendo poi in cambio il 20%. Questo è, diciamo, il contesto. Allora, se il contesto è questo, è chiaro che non ci si può limitare a dire aumentiamo le pene, perché aumentiamo le pene va bene, d'accordo, ma poi se non mettiamo nessuno in carcere, no, facciamo soltanto una bella figura alla conferenza stampa, no, ma il risultato non c'è. Quindi io sono del parere che bisognerebbe, intanto il paese dovrebbe cominciare a prendere coscienza che questo non è un problema che riguarda quattro mariuoli oppure dei politici infedeli, ma riguarda tutta la cittadinanza. No, e quindi impostare una strategia di lungo periodo che non sia limitata appunto a un certo, ci vogliono anche le pene, perché io non ricordo sempre quando si parla di questo che negli anni 60 ci fu un caso, per dire com'era diversa l'Italia, ci fu un caso di un doganiere di Terni il quale venne pizzicato a rubare sui dazi, perché lì c'erano le acciaierie e quindi arrivavano le materie prime, no? Beh, questo qui venne condannato in primo grado a 20 anni per corruzione, in secondo grado venne condannato a 25 anni ed è morto in carcere il poveraccio dopo 14 anni. Quindi non è vero che l'Italia è sempre stata un paese dove i corruttori e la corruzione era ignorata, no? Cioè la magistratura colpiva duro 50 anni fa. Poi però sappiamo che cosa è successo, sappiamo che la politica ha sdoganato la corruzione. Quindi poi, sai, quando il pesce puzza dalla testa, tutto il resto puzza. Ma la tesi secondo la quale molti ascoltatori ci stanno mandando messaggi divisi per opinione, c'è chi dice pene durissime, c'è chi dice bisogna cambiare radicalmente le procedure nella pubblica amministrazione senza aspettare il giudizio penale, buttare fuori la gente con provvedimenti amministrativi. Sabato il sottosegretario Rughetti ci ha promesso che con i decreti attuativi della legge Madia questo sarà possibile, vedremo. In teoria è già possibile con la legge di oggi, se non si fa è per quello che dice Sergio Rizzo, secondo me. Ma la domanda che ti faccio io, non è che per caso 50 anni fa si colpiva più duramente anche perché la mole, la pervasività della burocrazia e dello Stato nella società era infinitamente minore di quella di oggi? Questo è assolutamente vero, tanto per dirne una, non c'erano le regioni, ma però era un paese più sano, io sono convinto, no? Era un paese più sano perché usciva dalla guerra e perché aveva, diciamo, la spinta a provare a diventare un paese, no? Quindi in qualche modo, cioè, non è che fosse, cioè c'erano anche allora, come appunto ti dimostra questo caso, la corruzione c'era. Certo, non è che però, gli uomini erano perfetti. Esatto, però era come se si remasse un po' più tutti nella stessa direzione, no? Poi qualcosa si è rotto. Io sono convinto, io mi sono fatto l'idea che molto sta nell'educazione, no? Cioè nel fatto che noi abbiamo perduto un po' il senso civico, e quindi questa cosa poi, questo senso di smarrimento è stato recuperato da ciascuno, no? Facendosi fatti propri, e quindi le corporazioni si sono chiuse sempre più in se stesse, i gruppi di potere si facevano le leggi, le leggine, no? Che ognuna delle quali si tutelava maggiormente, ma questo fatto ha portato a, come dire, ad una perdita di senso pubblico, di senso dello Stato. Anche oggi i dirigenti, il problema qual è? Che quando un assessore ti dice che l'amministrazione è corrotta di un comune che ha 60.000 dipendenti, è come Roma, vuol dire che, diciamo, che non c'è più neanche in chi sta svolge un ruolo pubblico l'idea di servire la collettività, quindi non si sentono più investiti di un onore, non hanno più orgoglio di appartenere alla pubblica amministrazione. Questa cosa è decisiva, perché questa cosa, diciamo, cambia profondamente la prospettiva, no, di un dipendente pubblico. Cioè, certo, non sente intorno a sé una spinta. Quindi, diciamo, quindi da questo punto, in più non c'è la meritocrazia, quindi c'è anche, come dire, la spinta a fare ognuno quello che vuole, no? Tanto poi fai ricorso, tanto comunque ti dicono sempre di sì. Il sindacato in questa vicenda della corruzione ha avuto delle responsabilità enormi, perché non è stato un argine come doveva essere per certi comportamenti. Adesso dico una cosa, no? Noi sappiamo la vicenda di Parentopoli, del comune di Roma, di cui io, insomma, conosco un po' meglio perché è quello che ho seguito un po' di più. Sì. Beh, io ho scoperto l'altro giorno che c'è un elenco di persone, no? Che sono tutti parenti di sindacalisti che sono dentro l'ATA, no? Ma ce ne sono centinaia. Allora, questa cosa ti dice che alla fine la complicità, no, di questo sistema fangoso è talmente diffusa che è anche difficile, come dire, individuare dei responsabili, perché i responsabili poi alla fine sono tutti, no? E se tutti sono responsabili, nessuno è. Naturalmente, io ringrazio Sergio Rizzo per questa impietosa analisi che riguarda noi tutti, la generalità, non generalizza, però riguarda la generalità di una microdiffusione di comportamenti conniventi, collusivi, ciascuno che pensa al proprio interesse. Questo significa che ci metteremo moltissimi anni, perché bisogna cambiare dal basso la testa della gente, e solo dopo cambierà anche la testa di chi è sopra nell'amministrazione pubblica e nella politica. Grazie a Sergio Rizzo, torniamo con la vostra opinione tra un minuto, intanto a strade. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su Pedemontana. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:49 primi, 37 secondi. Corruzione, abbiamo visto i dati della redazione dell'ANAC che individua in percentuale i casi in cui ci sono state condanne per corruzione della pubblica amministrazione, individuando la netta prevalenza dell'amministrazione pubblica statale su quelle locali, enti previdenziali e così via. E questa valutazione di una media di cifra del Mazzetti di 153.000 euro, che insomma ha una certa consistenza. Abbiamo sentito Sergio Rizzo che ci dice: guardate che il problema però è avanzato, perché è microdiffuso nella società italiana, quindi si tratta di cambiare la testa tutti dal basso, altrimenti inutile invocare pene più dure e basta. E sentiamo un po' come la pensate voi. Cominciamo con Ciro, che ci chiama da Roma, prego. Grazie, buonasera. Buonasera. Complimenti, l'argomento è molto interessante. Io ho chiamato perché mi dispiace per la riservatezza, ma ho svolto l'incarico di responsabile prevenzione della corruzione in una grande azienda pubblica sana. Sì. Io sono d'accordo con quello che dice Sergio Ritto, sono un pubblico dipendente da 20 anni, manca indubbiamente la coesione, non abbiamo una voce comune e tra l'altro abbiamo anche una funzione pubblica, mi perdoni se lo dico, del tutto inesistente, però c'è grande retorica sul tema. Per esempio, lei mi dice le amministrazioni statali, e io direi quelle centrali, sono molto coinvolte, eppure l'ANAC a cui lei fa riferimento, l'ANAC che sta diventando un centro studi, sì, perché diciamo sul terreno l'ANAC è del tutto inefficace, poi se vuoi le dico anche... No, ma si figuri, non mi deve convincere, io l'ho considerata una grande foglia di fico inventata dalla politica. Una grandissima foglia di fico dove non c'è assolutamente imparzialità, non c'è quell'indipendenza che vuole la Costituzione, cioè l'amministrazione statale centrale, soprattutto quella romana, è il motore di tutte le amministrazioni pubbliche. È pressoché impossibile che un capo dipartimento o un direttore generale a Roma non sappia quello che succede. Lei sta dicendo una grande cosa, però, perché riguarda la responsabilità dei dirigenti pubblici. C'è un problema, i dirigenti, per la teoria di Milton o dei sei gradi di separazione, si conoscono tutti tra di loro. Allora io le faccio questa domanda: ma come può un responsabile prevenzione e corruzione di un ministero agire, che di solito è un capo dipartimento o il capo di gabinetto, agire nei confronti di dirigenti che lui stesso ha nominato, che fanno parte delle sue strutture? E soprattutto, bisogna anche dare un significato al concetto di corruzione, perché, mi permetta, voi avete fatto riferimento all'utilità in denaro, che è il 30% del reato corruttivo. Questo non lo dice mai nessuno. No, ha ragione. Le altre utilità, che sono nomine, promozioni, commissioni, che sono tutte quelle utilità che a Roma fanno scuola, perché a Roma si diventa, mi permetta di dirlo, dirigenti o direttori generali soltanto attraverso questo sistema, non se ne parla mai. Ma la stessa ANAC non ha la possibilità di intervenire a Roma, perché non ha il profiling dei suoi dipendenti. E quindi, Ciro, nella sua esperienza, bisogna rassegnarsi? No, c'è bisogno, bisogna individuare dei soggetti esterni alle amministrazioni che si rappresentino veramente quella cosiddetta procura amministrativa, perché io le dico, ma con una procura della Repubblica a disposizione, ma per quale motivo io mi dovrei rivolgere all'ANAC, con il rischio che la mia denuncia venga poi conosciuta da dirigenti, sindacalisti, da tutto il resto del mondo che gira intorno a... Ma l'ha detto anche Cantone, si è detto una cosa giusta, dobbiamo creare un ispettorato del tutto autonomo, ma un ispettorato fatto seriamente. Lei parla sempre del mondo anglosassone, con un profiling, cioè se io provengo dalla presidenza del Consiglio e c'è da analizzare qualcosa che riguarda quell'ufficio, c'è bisogno di un'astensione obbligatoria. Invece oggi né all'ANAC né nei ministeri questo succede. C'è questo principio. Allora, io considero questa telefonata, Ciro, in ragione della sua esperienza, uno degli apporti più concreti che si possano dare al dibattito pubblico, cioè senza un corpo di ispettori terzi autonomi è tutta fuffa quella che leggiamo. Io sono convintissimo di quello che ci dice Ciro con la sua esperienza. Vediamo se la politica ci rifletterà un giorno o l'altro. Roberto da Roma, come la pensa, Roberto? Buonasera, complimenti sempre per la trasmissione, Oscar. Io volevo sottolineare due aspetti. Uno è quello che nella pubblica amministrazione, secondo me, c'è tanta brava gente. Anche il problema è quello che... Sergio Rizzo ci ha detto, però loro sono demotivati dal vedere quello che intorno. Certo, sono demotivati, sì, perché ci stanno un combinato disposto tra i sindacati, che in parte, come dire, secondo me il sindacato del pubblico impiego è un sindacato che è molte volte anche contro lo stesso sindacato del privato. Non c'è dubbio, questo lo abbiamo visto. Ma poi soprattutto quello che ci diceva Ciro, i dirigenti fanno carriera con reciproci scambi di collusione eccetera eccetera, e anche questo è vero, perché sono organizzati per cordate, quindi è ovvio che chi sta sotto e lavora dice, beh, io da sotto cosa vuoi che cambia. E quindi la sua ricetta, Roberto? E di tutto questo chi poi va a scapito della qualità del servizio, ovviamente. L'altro aspetto è questo: l'ispettorato sarebbe interessante, quello che ha detto la persona che ha parlato prima di me, però dovremmo fare un po' come fa lo Stato nei confronti dei liberi professionisti, nel senso che nello Stato esistono delle figure che hanno un potere di firma, di veto o autorizzativo. Assolutamente. Il patrimonio di queste deve essere costantemente monitorato, deve essere trasparente. Roberto, lei dice un'altra cosa che considero essenziale, che naturalmente avrebbe delle reazioni durissime da parte di chi rappresenta i dirigenti pubblici, perché direbbero, ah, voi ci additate come i potenziali responsabili. Sì, i potenziali responsabili, come dicono anche le indagini, quindi per me trasparenza assoluta da quel punto di vista. Grazie anche a Roberto. Per Francesco purtroppo è finita la trasmissione, continuate con la 24, appuntamento alle 8:15 domani a Tentino 2 con Alessandro Milan, e domani pomeriggio con me qui alla versione di Oscar. Basta! Basta! Basta!